una gazza che si posa sotto un palo della luce, mentre il vento fa ballare gli occhi secchi di un abete. Già a Natale chi ci crede che senza di te io starò meglio? La mia stanza bicolore di farina e di carbone cambia aspetto se l'osservo dal cristallo di un bicchiere, come dentro un videogioco che più vinci e più stai perdendo tempo. Quasi, quasi smetto di pensarti, quasi, quasi aspetto. A me basta già sapere che respiri a milioni di chilometri da qui e che il vento che mi spettina i capelli e il tuo pensiero toccami. Appoggiati i finestrini di due treni che si incrociano e ripartono. Un funambolo distratto sulla pelle tua, tra le stelle. Davanti al tuo portone un semaforo lampeggia, un metronomo perfetto, l'incalzare della pioggia. Poi mi siedo sulle scale mentre il vento fuma la mia sigaretta. Il rumore della porta, la tua voce che saluta e qualcuno che ringrazia della splendida serata. Hai girato la clessidra, è iniziato un nuovo tempo. A me basta già sapere che respiri a milioni.